prigioniero sarò dei ricordi che porto dentro me, di un amore pulito e sincero che non può esistere. Così

senza qui brucia le mani. Una canzone a piedi nudi che va dentro ad un'altra che in un'altra sta, che lei scatterà con le sue mani. Posati un attimo sulle mie mani e poi vai, entra nelle case, vai, tra le rose e nei solai, ruba il tempo agli orologiai e le stelle ai marinai, attraversa i sogni suoi. Scondi di dentro

scritta sopra i muri, confusi ed insicuri. Fotografie e immagini di un infinito film. Siamo colpevoli, esseri innocenti, e testardi ed incoscienti. Sono isole dove non viaggi mai. Bra-